Friuli nel mondo. 94esima trasmissione dedicata agli emigrati. Sagra della canzone friulana di Pradamano. Nell'incantevole cornice del Parco Giacomelli di Pradamano si è svolto il Festival della Canzone Friulana, che ha registrato un notevole afflusso di pubblico per la buona partecipazione di autori e cantanti, per la maestria del complesso orchestrale e della bacchetta di Guido Cergoli e per la signorile presentazione di Maria Ellero e Alviero Negro su testo di Dino Virgili. L'interesse per la manifestazione è dovuto al fatto che essa ha inteso portare alla ribalta un mazzetto di nuove canzoni friulane che andranno ad arricchire il patrimonio canoro della nostra terra. I componimenti presentati, e che fra poco, amici lontani, ascolterete, hanno saputo essere il più possibile aderenti alla necessaria evoluzione del gusto, senza segnare troppo evidenti fratture con l'ambiente e con la tradizione melodica nostrani. Di tutta la manifestazione registreremo per oggi alcuni componimenti, primi fra essi due canzoni fuori concorso del maestro Carletto Concina su testo di Alviero Negro e del maestro Guido Cergoli su testo di Dino Virgili. A voi quindi, cari ascoltatori, dare un giudizio sulla validità di questa edizione del Festival 1961 della canzone friulana di Pradamano. Maria di Leno canta Benedete la me rose di Carletto Concina su testo di Alviero Negro. La Staiare dal mio paese è il titolo di una brillante composizione di Guido Cergoli su versi di Dino Virgili. Donne e sorelle, amimi lusigne dal cu, io ti volimbi stupar di chianta, oi tra la la, si guittisse di gris, la luminaris di luci di schiottis, al meglium profundizi, li despocci sto in dinastindo. Talbor disore, talbor disore, poi gli azneris li dal puerto. Se non so io chianta, chiantarando me ci guittis, tome gris, ballaran pantianis e suris, suonaran liranis iu parla. Se non so io chianta, cui dirà gli scianzonettis dal pais, cui dirà gli usigni sei zi, se no io cosa chianta. Dome soreli, ami mi usigni dal pur, io vivo in pistruna di chianta, oi tra la la, tal mio pais di nome e di sé, tre scaghezza torse o, tre pulcetti sul cordon, sotto il ferali di ane croce, un cisì dentro un balcone, l'ideo stere due scontas, cui dirà li chianzonettis dal pais, cui dirà li lusigni sei zi, se no io cosa chianta, cui pais ti vuoi al vento sì, se no io cosa amà. Dino Furlanetto e Galdino Turco eseguono la nostalgica canzone di Donato dal titolo Tiare lontane. Soi soli in rive alla mare, soi spiare tu al salaro, soi copensi, soi casuali, biele cimentazzone d'un barcio. Cure mi vero Gri Gri Gri di Ottavio Paroni su versi di Guido Michelutti e la canzone che Silvio Marcuzzi e Alfredo Mariotti vi presentano. L'han passato con l'amorose, soi fermati con tradute, sbisiante zute, poi gli appartenere più. Par poter lu quarta chiase, vai le tutto un pazzole, so sintissis c'è calchiante il mio grido per bene te hai perdute l'amorose soi restato me col grido ste mattine e la despose con un di culi gri gri gri gri gri soi restato col gri, gri, gri, gri, gri, qui sono altre semiulve. Ed infine la soprano di Leno canterà un pipin di Paroni su versi di Someda De Marco. Thank you. pimpio i piedi di un Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, 94esima trasmissione, a cura di Ermete Pellizzari.